L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Diciassettesima puntata. Morte di Zerbino e Isabella. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Una fondamentale diseguaglianza divide gli eroi d'Ariosto. Ci sono quelli costruiti di pasta fatata, che più gli fioccano addosso i colpi di lancia e di spada, più si temprano, come se tanto ferro giovasse alla loro salute. E ci sono quelli, non meno nobili e non meno valorosi, che essendo costruiti di pasta umana ricevono ferite che sono ferite vere e ne possono morire. Questa genia di eroi umani si dimostra particolarmente vulnerabile non solo all'offesa delle armi, ma anche a quella delle sventure. Brevi sono i momenti di felicità e di pace che toccano a loro e alle loro trepidanti innamorate. Zerbino è uno di loro. Si è da poco ricongiunto con la sua Isabella, dopo che tanti ostacoli e traversie li avevano separati, e ora vanno seguendo le tracce d'Orlando, al quale entrambi devono la libertà e la vita. Da sparsi segni e testimonianze, apprendono che Orlando è impazzito e ne raccolgono le armi sparse per i prati. Ma Mandricardo, che aspettava Orlando per continuare il duello incominciato, non crede alla pazzia del suo avversario e si dichiara legittimo possessore della spada d'Urlindana. Zerbino sguaina la sua spada per difendere quella dell'amico. Viene ferito. Isabella, unita ad Oralice, riesce a far interrompere lo scontro. Quivi Zerbin tutte raguna l'arme e ne fa come un bel trofeo su un pino, e volendo vietar che non se n'arme cavalier paesan e peregrino, scrive nel verde ceppo, in breve carme, armatura d'Orlando paladino, come volesse dir nessun la muova che star non possa con Orlando a prova. Finito che ebbe la lodevole opera, tornava a rimontar sul suo destriero, ed ecco Mandricardo arrivar sopra, che visto il pin di quelle spoglie altiero, lo priega che la cosa gli discuopra, e quegli narra come ha inteso il vero. Allora il re pagan, lieto non bada, che viene al pino e ne leva la spada, dicendo: alcun non me ne può riprendere, non è pur oggi che io l'ho fatta mia, ed il possesso giustamente prendere ne posso in ogni parte, ovunque sia. Orlando, che temea quella difendere, s'ha finto pazzo e l'ha gittata via, ma quando sua viltà, pur così scusi, non debbe far ch'io mia ragion non usi. Zerbino a lui gridava: non la torre, o pensa non l'aver senza questione. Se togliesti così l'arme de torre, tu l'hai di furto più che di ragione. Senz'altro dir, l'un sopra l'altro corre, d'animo e di virtù gran paragone. Di 100 colpi già rimbomba il suono, né bene ancora nella battaglia sono. Di prestezza Zerbin pare una fiamma, a torsi ovunque d'Urlindana cada. Di qua, di là, saltar come una damma fa il suo destrier, dov'è miglior la strada. E ben convien che non ne perda dramma, ch'andrà, s'un tratto il coglie quella spada, a ritrovar gli innamorati spirti che empion la selva degli ombrosi mirti. Come il veloce can, che il porco assalta che fuor del gregge errar vegga nei campi, lo va aggirando, e quinci e quindi salta, ma quello attende che una volta inciampi, così, se vien la spada o bassa o d'alta, sta mirando Zerbin come ne scampi. Come la vita e l'onor salvi ad un tempo, tien sempre l'occhio e fiere e fugge a tempo. Dall'altra parte, ovunque il saracino la fiera spada vibra, o piena o vuota, sembra, fra due montagne un vento alpino, una frondosa selva il marzo scuota, ch'ora la caccia a terra a capochino, or gli spezzati rami in aria ruota. Benché Zerbin più colpi e fugge e schivi, non può schivare al fin cun non gli arrivi, non può schivare al fine un gran fendente che tra il brando e lo scudo entra sul petto. Grosso l'usbergo e grossa parimente era la piastra e il panziron perfetto, pur non gli steron contra, ed ugualmente alla spada crudel di Eron Ricetto. Quella calò tagliando ciò che prese, la corazza e l'arcion, fin sull'arnese. E se nonché fu scarso il colpo alquanto, per mezzo lo fendea come una canna, ma penetra nel vivo appena tanto che poco più che la pelle gli danna. La non profonda piaga è lunga quanto non si misureria con una spanna. Le lucide arme, il caldo sangue irriga, persino al piè di rubiconda riga. Così talora un bel purpureo nastro ho veduto partir tela d'argento da quella bianca man più calabastro da cui partire il cor. Spesso mi sento. Quivi poco a Zerbin vale esser mastro di guerra ed aver forza e più ardimento, che di finezza d'arme e di possanza il re di Tartaria troppo l'avanza. Fu questo colpo del pagan maggiore in apparenza che fosse in effetto, tal che Isabella se ne sente il core fendere in mezzo all'agghiacciato petto. Zerbin, pien d'ardimento e di valore, tutto s'infiamma d'ira e di dispetto, e quanto più ferire a due man puote, in mezzo l'elmo il tartaro percuote. Quasi sul collo del destrier piegosse per l'aspra botta il saracin superbo, e quando l'elmo senza incanto fosse partito il capo gli avria il colpo acerbo. Con poco differir ben vendicosse, né disse un'altra volta io te la serbo, e la spada gli alzò verso l'elmetto sperandosi tagliarlo infino al petto. Zerbin, che tenea l'occhio ove la mente, presto il cavallo alla man destra volse. Non si presto però che la tagliente spada fuggisse, che lo scudo colse. Da sommo adimo ella il partì ugualmente, e di sotto il braccial roppe e disciolse, e lui ferì nel braccio, e poi l'arnese spezzogli, e nella coscia anco gli scese. Zerbin di qua di là cerca ogni via, né mai di quel che vuol cosa gli avviene, che l'armatura sopra cui feria un piccol segno pur non ne ritiene. Dall'altra parte il re di Tartaria sopra Zerbino a tal vantaggio viene, che l'ha ferito in sette parti o in otto, tolto lo scudo e mezzo l'elmo rotto. Quel tuttavia più va perdendo il sangue, manca la forza e ancor par che non senta. Il vigoroso cor che nulla langue val sì che il debol corpo ne sostenga. La donna sua, per timor fatta esangue, intanto a Doralice s'appresenta e la priega e la supplica per Dio che partir voglia il fiero assalto e rio. Cortese come bella, Doralice, né ben sicura come il fatto segua, fa volentier quel che Isabella dice e dispone il suo amante a pace e a triegua. La ferita di Zerbino è di quelle che avrebbero fatto sorridere Orlando o Ruggero o Rodomonte, ma come ogni ferita che tocca vene umane può versare tanto sangue da condurre alla morte. Non è però che personaggi come Zerbino e Isabella siano più veri dei giganteschi ammazzasette, essi seguono semplicemente un'altra logica. Sono eroi d'una storia lacrimosa e in mezzo alle avventure grottesche e truculente aprono con la loro vita e la loro morte uno spazio poetico di dimensioni e sensibilità diverse. Così, a prieghi dell'altra, l'ira ultrice di cor fugge a Zerbino e si dilegua, ed egli, dove a lei par, piglia la strada, senza finir l'impresa della spada, che lasciar Durindana sì gran fallo gli par, che più d'ogni altro mal gli incresce, quantunque appena star possa a cavallo, pel molto sangue che gli è uscito ed esce. Or poi, che dopo non troppo intervallo cessa con l'ira il caldo, il dolor cresce, cresce il dolor sì impetuosamente che mancarsi la vita se ne sente. Per debolezza più non poté agire, sì che fermossi appresso una fontana. Non sa che far, né che si debba dire per aiutarlo la donzella umana. Sol di disagio lo vede morire, che quindi è troppo ogni città lontana, dove in quel punto al medico ricorre che per pietade o premio gli soccorre. Ella non sa se non in van dolersi chiamar fortuna e il cielo empio e crudele, perché, ai las, dicea, non mi sommersi quando levai nell'ocean le vele. Zerbin, che i languidi occhi ha in lei conversi, sente più doglia che ella si querele che della passion tenace e forte che l'ha condotto mai vicino a morte. Così, cor mio, vogliate, le diceva, dopo ch'io sarò morto, amarmi ancora? Come solo il lasciarvi è che m'aggreva qui senza guida, e non già perch'io mora. Che se in sicura parte m'accadeva finir della mia vita l'ultima ora, lieto e contento e fortunato a pieno morto sarei, poich'io vi moro in seno. Ma poi che il mio destino iniquo e duro vol ch'io vi lasci, e non so in man di cui, per questa bocca e per questi occhi giuro, per queste chiome onde allacciato fui, che disperato nel profondo oscuro vo dell'inferno, ove il pensar di voi ch'abbia così lasciata assai più ria sarà d'ogni altra pena che vi sia. A questo la mestissima Isabella, declinando la faccia lacrimosa e congiungendo la sua bocca a quella di Zerbin, languidetta come rosa, rosa non colta in sua stagion, sì che ella impallidisca in sulla siepe ombrosa, disse: «Non vi pensate già, mia vita, far senza me quest'ultima partita. Di ciò, cor mio, nessun timor vi tocchi. Chi vo seguirvi o in cielo o nello inferno, convien che l'uno e l'altro spirito scocchi, insieme vada, insieme stia in eterno. Non si tosto vedrò chiudervi gli occhi o che m'ucciderà il dolore interno, o se quel non può tanto, io vi prometto, con questa spada oggi passarmi il petto. De corpi nostri ho ancor non poca speme, che me morti che vivi abbian ventura. Qui forse alcun capiterà che insieme, mosso a pietà, darà lor sepoltura». Così dicendo, le reliquie estreme dello spirito vital che morte fura va ricogliendo con le labbra meste, finché una minima aura ve ne reste. Zerbin, la debol voce rinforzando, disse: «Io vi prego e supplico, mia diva, per quello amor che mi mostraste quando per me lasciaste la paterna riva. E se comandar posso, io bel comando, che finché piaccia a Dio restiate viva. Né mai per caso pognate in oblio che quanto amar si può v'abbia amato io. Dio vi provvederà d'aiuto, forse, per liberarvi d'ogni atto villano, come fe quando alla spelonca torse per inditrarvi il senator romano. Così la sua mercè già vi soccorse nel mare contra il biscaglin profano. E seppure avverrà che poi si deggia morire, allora il minor mal se leggia». Non credo che quest'ultime parole potesse esprimersi che fosse inteso. E finì come il debol lume suole, cui cera manchi o d'altro in che sia acceso. Chi potrà dire a pien come si duole, poiché si vede pallido e disteso la giovanetta e freddo come ghiaccio il suo caro Zerbin restare in braccio? Sopra il sanguigno corpo s'abbandona e di copiose lacrime lo bagna e stride sì che intorno ne risuona molte miglia il bosco e la campagna. Né alle guance né al petto si perdona che l'uno e l'altro non percuota e fragna e straccia a torto l'aure crespe chiome chiamando sempre in van l'amato nome. In tanta rabbia, in tal furor sommersa l'avea la doglia sua che facilmente avria la spada in se stessa conversa poco al suo amante in questo ubbidiente su un eremita che alla fresca e terza fonte avea usanza di tornar sovente dalla sua quindi non lontana cella non s'opponea venendo al voler d'ella. Il venerabil uomo calta bontade avea congiunta natural prudenzia ed era tutto pien di caritade di buoni esempi ornato ed eloquenzia, alla giovan dolente persuade con ragioni efficaci pazienza, ed innanzi le puon come uno specchio donne del testamento e nuovo e vecchio. Poi le fece vedere come non fusse alcun se non in Dio, vero contento, e che era l'altre transitorie flusse speranze umane e di poco momento, e tanto seppe dir che la ridusse da quel crudele ostinato intento che la vita sequente ebbe disio tutta al servigio dedicar di Dio. Non che lasciar del suo signor voglio unque nel grand amor nelle reliquie morte, convien che l'abbia ovunque stia ed ovunque vada e che seco e notte e dì le porte. Quindi aiutando l'eremita dunque, che era della sua età valido e forte, sul mesto suo destrier Zerbin posaro e molti dì per quelle selve andaro. Non volse il cauto vecchio ridur seco sola con solo la giovane bella là dove ascosa in un selvaggio speco non lungi avea la solitaria cella fra sé dicendo con periglio arreco in una man la paglia e la facella, né si fida in sua età né in sua prudenzia che di sé faccia tanta esperienzia. Di condurla in Provenza ebbe pensiero non lontano a Marsiglia, in un castello dove di sante donne un monastero ricchissimo era e di edificio bello, e per portarne il morto cavaliero composto in una cassa aveano quello che in un castel che era tra via si fece lunga e capace e ben chiusa di pece. Più e più giorni gran spazio di terra cercaro e sempre per l'occhi più inculti che pieno essendo ogni cosa di guerra voleano gir più che poteano occulti. Al fine un cavalier la via lor serra che lor fe oltraggi e disonesti insulti. Ecco la storia lagrimosa e la storia grottesca che si ricongiungono. Il prepotente che Isabella incontra sulla via del convento è Rodomonte. Sdegnato contro le donne per il tradimento della sua Doralice e contro Agramante perché non ha saputo fargli giustizia, il re d'Algeri si è ritirato alle foci del Rodano vicino a una chiesetta abbandonata. Vista Isabella e deciso a dissuaderla dal farsi monaca, Rodomonte scaglia nel fiume l'eremita e vuol far violenza alla giovane. La storia grottesca sembra stia per trionfare sulla storia lacrimosa, ma ecco invece che è Isabella a vincere. Vince facendosi uccidere, obbligando con uno stratagemma il guerriero sciocco e brutale a una soluzione tragica lontana dalle sue intenzioni. Isabella dice a Rodomonte di conoscere il segreto d'una pozione d'erbe che rende invulnerabili e prova la pozione su se stessa, invitando Rodomonte a decapitarla con un colpo di spada. Così, attraverso i mezzi del grottesco, la storia lacrimosa torna a imporre la sua logica e allo scriteriato Rodomonte non resta che piangere la sventurata eroina e farsi guardiano della sua tomba. Rodomonte Crudel, poi che levato s'ebbe d'accanto il garrulo eremita, si ritornò con viso men turbato verso la donna mesta e sbigottita, e col parlar che fra gli amanti usato, dicea che era il suo cuore, la sua vita, il suo conforto e la sua cara speme, ed altri nomi tai che vanno insieme. E si mostrò sì costumato allora che non le fece alcun segno di forza. Il sembiante gentil che l'innamora, l'usato orgoglio in lui spegne e t'ammorza, e benché il frutto trarne possa fuora, passar non però vuole oltre alla scorza, che non gli par che potesse esser buono quanto da lei non lo accettasse in dono. E così di disporre a poco a suoi piaceri Isabella credea. Ella, che in sì solingo e strano loco, qual topo in piede al gatto si vedea, vorria trovarsi innanzi in mezzo il fuoco. E seco tutta volta rivolgea se alcun partito, alcuna via fosse atta a trarla quindi immaculata e intatta. Fa nell'animo suo proponimento di darsi con sua man prima la morte che il barbaro crudel n'abbia il suo intento e che le sia cagion d'arrar sì forte contra quel cavalier che in braccio spento l'avea crudele e dispietata sorte, a cui fatto ave col pensier devoto della sua castità perpetuo voto. Crescer più sempre l'appetito cieco vede del re pagan né sa che farsi, ben sa che vuol venire all'atto bieco ove i contrasti suoi tutti fien scarsi. pur discorrendo molte cose, seco il modo trovò al fin di ripararsi e di salvar la castità sua, come io vi dirò con lungo e chiaro nome. Al brutto Saracin, che le venia già contra con parole e con effetti, privi di tutta quella cortesia che mostrata le avea nei primi detti, «Se fate che con voi sicura io sia del mio onor», disse, «e ch'io non ne sospetti, cosa all'incontro vi darò che molto più vi varrà ch'avermi l'onor tolto. Per un piacer di sì poco momento, di che nasce abbondanza tutto il mondo, non disprezzate un perpetuo contento, un vero gaudio, a nullo altro secondo. Potrete tuttavia ritrovar 100 e 1000 donne di viso giocondo, ma chi vi possa dar questo mio dono, nessuno al mondo, o pochi altri ci sono. Ho notizia d'un'erba, e l'ho veduta venendo, e so dove trovarne appresso, che bollita con elera e con ruta, ad un fuoco di legna di cipresso e fra mano innocenti indi premuta, manda un liquor che chi si bagna adesso 3 volte il corpo in tal modo l'indura che dal ferro e dal fuoco l'assicura. Io dico, se 3 volte se ne immolla, un mese invulnerabile si trova. Oprar conviensi ogni mese l'ampolla, che sua virtù più termine non giova. Io so far l'acqua, ed oggi ancor farolla, ed oggi ancor voi ne vedrete prova. E vi può, se io non fallo, esser più grata che d'aver tutta Europa oggi acquistata. Da voi domando in guidardon di questo, che sulla fede vostra mi giuriate, che né in detto né in opera molesto mai più sarete la mia castitate. Così dicendo, Rodomonte onesto fe ritornar, che in tanta volontate venne che inviolabil si facesse, che più che ella non disse le promesse, e servaralle finché venga fatto della mirabile acqua esperienza, e sforzerasse intanto a non fare atto, a non far segno alcun di violenza. Ma pensa poi di non tenere il patto, perché non ha timor né reverenzia di Dio o di santi, e nel mancar di fede tutta a lui la bugiarda Africa cede. Ad Isabella il re d'Alger scongiuri di non la molestar, fe più di 1000, purché sa lavorar l'acqua procuri, che farlo può qual fu già Cigno e Achille. Ella, per balze e per valloni oscuri, dalle città lontana e dalle ville, ricoglie di molte erbe, e il Saracino non l'abbandona, e l'è sempre vicino. Poi chi in più parti, quant'era abbastanza, colson dell'erbe e con radici e senza, tardi si ritornaro alla loro stanza, dove quel paragon di continenza tutta la notte spende che l'avanza a bollire erbe con molta avvertenza. E a tutta l'opera e a tutti quei misteri si trova ognor presente il re d'Algeri, che producendo quella notte in giuoco con quelli pochi servi che eran seco, sentia per lo calor del vicin fuoco che era rinchiuso in quell'angusto speco tal sete che bevendo or molto or poco 2 barili votar pieni di greco, che aveano tolto 1 o 2 giorni innanti i suoi scudieri a certi vie andanti. Non era Rodomonte usato al vino, perché la legge sua lo vieta e danna, e poiché lo gustò, liquor divino gli par, migliore che il nettare o la manna. E riprendendo il rito saracino, gran tazze e pieni fiaschi ne tracanna. Fece il buon vino, ch'andò spesso intorno, girare il capo a tutti come un torno. La donna in questo mezzo la caldaia dal fuoco tolse, ove quell'erbe cosse, e disse a Rodomonte: «A ciò che paia, che mie parole al vento non ho mosse, quella che il ver dalla bugia dispaia, e che può dotte far le genti grosse, te ne farò l'esperienza ancora, non nell'altrui, ma nel mio corpo, orora. Io voglio a fare il saggio esser la prima, del felice liquor di virtù pieno, a ciò tu forse non facessi stima che ci fosse mortifero veneno. Di questo bagnerommi dalla cima del capo giù per il collo e per lo seno. Tu poi, tua forza in me prova e tua spada, se questo abbia vigor, se quella rada». Bagnossi, come disse, e lieta porse all'incauto pagano il collo ignudo. Incauto e vinto anco dal vino, forse, in contra cui non vale elmo né scudo. Quell'uom bestial le prestò fede e scorse sì con la mano e sì col ferro crudo che del bel capo già d'amore albergo fe tronco rimanere il petto e il terco. Quel fe tre balzi e fu ne udita chiara voce ch'uscendo nominò Zerbino, per cui seguire ella trovò sì rara via di fuggir di man del saracino. Alma, c'avesti più la fede cara e il nome quasi ignoto e peregrino al tempo nostro della castitade, che la tua vita e la tua verde etade, vattene in pace, alma beata e bella. Così i miei versi avesson forza, come ben m'affaticherei con tutta quella arte che tanto il parlar orna e come, perché mille e mill'anni e più novella sentisse il mondo del tuo chiaro nome. Vattene in pace alla superna sede e lascia all'altre esempio di tua fede. All'atto incomparabile e stupendo dal cielo il creator giù gli occhi volse e disse: più di quella ti commendo la cui morte a Tarquinio il regno tolse, e per questo una legge fare intendo tra quelle mie che mai tempo non sciolse, la qual per le inviolabili acque giuro che non muterà seculo futuro. Per l'avvenire vo che ciascuna caggia il nome tuo sia di sublime ingegno e sia bella, gentil, cortese e saggia e di vera onestade arrivi al segno, onde materia agli scrittori caggia di celebrare il nome inclito e degno, tal che Parnasso, Pindo ed Elicone sempre Isabella, Isabella risone. Dio così disse e fe serena intorno l'aria e tranquillo il mar più che mai fusse. Fe l'alma casta al terzo ciel ritorno e in braccio al suo Zerbin si ricondusse. Rimase in terra con vergogna e scorno quel fier senza pietà nuovo Breusse, che poiché il troppo vino ebbe digesto biasmò il suo errore e ne restò funesto. Placare o in parte satisfar pensosse all'anima beata di Isabella, se poi che a morte il corpo le percosse desse almen vita alla memoria della. Trovò per mezzo a ciò che così fosse di convertirle quella chiesa, quella dove abitava e dove ella fu uccisa, in un sepolcro, e vi dirò in che guisa. Di tutti i lochi intorno fa venire mastri, chi per amore e chi per tema, e fatto ben 6.000 uomini unire de gravi sassi vicin monti scema, e ne fa una gran massa stabilire che dalla cima era alla parte estrema 90 braccia, e vi rinchiude dentro la chiesa che i due amanti ave nel centro. Imita quasi la superba mole che fe Adriano all'onda tiberina. Presso al sepolcro una torre alta vuole, capitarvi alcun tempo si destina. Un ponte stretto e di due braccia sole fece sull'acqua che correa vicina. Lungo il ponte, ma largo era sì poco che dava appena a due cavalli loco, a due cavalli che venuti a paro o che insieme si fossero scontrati, e non avea né sponda né riparo, e si poteva cader da tutti i lati. Il passar quindi vuol che costi caro a guerrieri o pagani o battezzati, che delle spoglie lor 1.000 trofei promette al cimiterio di costei. Abbiamo trasmesso la 17ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.